Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa europea. Da questa settimana torniamo a un orario ancora più presto nella mattinata, ma siamo sempre qui con i nostri 10 minuti circa di appunto notizie dall'Europa, così come le hanno raccolte i giornali europei. E cominciamo questa volta da una vignetta, è una vignetta apparsa sulla Süddeutsche Zeitung, una vignetta del vignettista tedesco Moore, si potremmo intitolare a binario solidale, ve la segnalo perché è legata anche all'idea di ius soli, cioè l'idea che se il diritto, letteralmente in latino il diritto che ci dà il suolo, cioè l'idea che se uno nasce in un paese automaticamente acquista la cittadinanza di quel paese. E nella vignetta si vede un grande calderone, il titolo è binario solidale, su cui viene immesso un carrello, una specie di carrello ferroviario, arriva la grande aquila tedesca e distribuisce agli immigrati appunto una parte, una minestra che è fatta in realtà di soli, di suolo tedesco. Il riferimento naturalmente è alla decisione della Germania, alle dichiarazioni della sua cancelliera Angela Merkel di cambiare drasticamente la politica di accoglienza dei migranti, in particolare dei richiedenti asilo. E sulla questione è tornata proprio su un quotidiano tedesco, la FAZ, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, l'altro grande quotidiano tedesco. La Süddeutsche Zeitung è un quotidiano appunto del sud della Germania, mentre la FAZ è di Francoforte, e su questo quotidiano è apparsa un'intervista alla nostra Presidente della Camera, Laura Boldrini, che oltre ad avere un passato in cui si è sicuramente occupata anche di migranti, perché è stata, prima di diventare parlamentare e poi Presidente della Camera, è stata portavoce dell'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, in questa intervista tra le altre cose ha detto: penso effettivamente che se si arrivasse ad una gestione centralizzata dell'asilo, è proprio una questione di cui si discute, al di là delle decisioni annunciate dalla Germania, dice la Boldrini, potremmo essere molto più efficaci che non affidandoci a 28 sistemi nazionali diversi. Sarebbe una nuova immagine dell'Europa che non si fa lacerare dalle sue divisioni interne. Un'Europa della solidarietà e della condivisione, quella che stiamo vedendo ad esempio proprio in questi giorni in tante belle iniziative dei cittadini tedeschi. E il riferimento, le immagini le abbiamo viste tutte, tutti, è appunto agli sforzi dei singoli cittadini, al di là dei proclami o delle decisioni politiche centralizzate, gli sforzi dei singoli cittadini che accolgono, che fanno quello che possono per accogliere i migranti quando varcano i confini della Germania. Anche in Francia il dibattito è molto aperto, è intervenuto l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, che tra l'altro sarà probabilmente uno degli sfidanti dell'attuale presidente Hollande, o di chi si candiderà per il centrosinistra al posto di Hollande, che non è molto popolare, l'abbiamo citato molte volte, il suo grado di popolarità è ai minimi storici, ma in ogni caso Nicolas Sarkozy probabilmente come candidato del centrodestra lo sfiderà alle prossime presidenziali. In una lunga intervista apparsa su Le Figaro, quotidiano conservatore francese, ha proposto di rifondare la politica migratoria europea con una revisione totale degli accordi di Schengen, che prevedono, come sapete, la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione Europea. Tra l'altro, un altro famoso personaggio francese, che è Eric Cantona, famosissimo calciatore, che però dopo quando ha terminato la sua carriera come calciatore è diventato anche attore, non fa mistero delle sue posizioni politiche. In questo caso sulla questione dei migranti ha detto a Le Parisien, che è un altro quotidiano francese: io personalmente sono pronto ad accoglierli anche a casa mia. Sulla questione, come potete immaginare, tutti i giornali europei hanno pubblicato interviste, approfondimenti. Allora, per esempio, su El País, il ministro degli esteri spagnolo José Manuel García Margallo si è pronunciato per l'avvio di un dialogo con il presidente siriano Bashar al-Assad per porre fine alla guerra civile che dilania lo Stato da anni ormai e che provoca l'esodo di decine di migliaia di rifugiati. Sapete anche che ci sono anche posizioni diverse, come quelle appunto del presidente francese Hollande, che invece è favorevole, in realtà ha già iniziato un intervento armato. Sulla questione dei migranti, e questo articolo l'ho trovato particolarmente interessante perché è stato pubblicato dal Times of Malta, quindi sulla questione ci spostiamo appunto sul Times of Malta, un quotidiano della Valletta, l'ho trovato particolarmente interessante perché molte delle cose che dice, ahimè, aggiungerei, andrebbero bene anche per gli italiani. Si tratta di 10 miti da sfatare sull'immigrazione, si parte dagli articoli apparsi in particolare sulla stampa britannica, perché anche qui sapete che la posizione posizione della Gran Bretagna in realtà è molto più dura di quella di altri paesi. Prima della tragedia, della pubblicazione di quella foto del bambino di 3 anni che è trovato morto su una spiaggia della Turchia, che ha un po' scosso gli animi e ammorbidito alcune posizioni, comunque prima, questo è successo 10 giorni fa, prima della pubblicazione di quella foto, la posizione della Gran Bretagna e del suo primo ministro Cameron era durissima sulla questione dei migranti, si opponevano a qualsiasi modifica del numero di richiedenti asilo che la Gran Bretagna avrebbe accolto. Nel frattempo qualcosa è cambiato, ma non poi così tanto, perché comunque i partiti, diciamo, più populisti o di estrema destra continuano a soffiare sul fuoco delle paure che gli inglesi, come anche gli italiani, come tutti gli europei, hanno di fronte a queste ondate di migrazione. E allora appunto il Times of Malta dice: sfatiamo i 10 miti che vengono alimentati in alcuni paesi, come appunto e da alcuni giornali, come per esempio il Daily Mail in Gran Bretagna. E questi miti sono: il mito numero uno, per esempio, tutti vogliono venire nell'Unione Europea. Non è vero, spesso l'Unione Europea è un posto di transito, vengono solo per stare meglio, più che altro magari scappano dal peggio, non sanno ancora che cosa ci sarà. Verrà meno la coesione sociale in Europa, i migranti si fermano alzando le barriere, questo è il mito da sfatare forse più urgentemente da sfatare, potremmo dire così. I migranti resteranno nel paese ospitante per sempre e così via. Questo articolo, come gli altri, lo trovate, lo potete leggere integralmente, grazie, lo ripeto ancora una volta, all'opera del sito voxeurope.eu, che traduce tanti articoli, ne segnala tanti altri e tra l'altro ospita anche il dibattito tra i suoi lettori e frequentatori del sito, appunto all'indirizzo che vi ho detto, www.voxeurope.eu. Sulla questione dei migranti è veramente, secondo me, vale la pena appunto di dedicare quasi tutta la rassegna a questa questione. C'è molto dibattito anche in Polonia, spiegano la Gazzetta Wyborcza, Newsweek Polska, cioè l'edizione polacca di Newsweek, e Dorexi, che la questione dei rifugiati che raggiungono l'Europa sta irrompendo nel dibattito pubblico in Polonia, e sebbene il primo ministro Ewa Kopacz abbia ammesso che i polacchi hanno il dovere morale di aiutare i rifugiati, ripete anche che non possono permettersi di accogliere i migranti e cosiddetti economici, perché adesso sta spuntando appunto questa definizione di migrante economico: da una parte chi chiede asilo per ragioni politiche perché scappa da una guerra, e dall'altra invece i migranti economici, che poi sono tutti da definire. Sulla questione della migrazione abbiamo parlato della Germania, allora c'è l'intervista sulla FAZ di Laura Boldrini, ma vediamo invece com'è questa questione raccontata proprio dall'interno, raccontata in particolare da Der Spiegel, che è uno dei due news magazine principali della Germania, l'altro è Stern. Spiegel vuol dire specchio, e in questo caso davvero uno specchio, un tentativo di vedere specchiati i tedeschi in questa grande iniziativa di accoglienza lanciata dalla cancelliera Merkel, e che, come dicevamo, alla quale molti cittadini sembrano aver reagito favorevolmente. Allora Spiegel scrive che gran parte dei profughi che arrivano in Europa è diretta in Germania, perché questo è un dato di fatto. Se il paese saprà integrarli, diventerà più ricco e moderno. È una sfida fondamentale per Berlino e per tutto il continente. La traduzione integrale dell'articolo, che è molto lungo, molto documentato, fatto benissimo, la trovate su Internazionale. Vi leggo le prime righe. La rabbia è nell'aria. Angela Merkel è arrivata a Heidenau ed è circondata dalla gente, ma non è un'accoglienza cordiale. Traditrice del popolo, urlano alcuni. La Marmaglia siamo noi, strillano altri. È la superba degli stupidi, scrive il giornalista di Spiegel. Quando la cancelliera scompare nell'ex magazzino dove sono stati alloggiati 400 rifugiati, dietro i cordoni della polizia, gli abitanti di questa cittadina della Sassonia discutono delle persone che hanno trovato temporaneamente rifugio nel loro comune. Questo per dire che anche se ci sono degli annunci, e come sempre accade in Germania, agli annunci seguono i fatti, anche se ci sono questi annunci di accoglienza, il problema di come integrarli è il problema della reazione di parte dell'opinione pubblica, e soprattutto di quei cittadini che vivono vicino a dove ci sono i centri di accoglienza. Resta anche in Germania, non basta, naturalmente tutte queste questioni non si risolvono per decreto, potremmo dire. Vi segnalo, giusto per cambiare argomento prima di salutarci, un articolo di Neftemp Koriki, Politiki, che è un quotidiano conservatore greco, che racconta di questa prima donna al potere, che è Vasiliki Tanou, che è ha preso le redini del governo greco in attesa delle elezioni del 20 settembre, di cui ci occuperemo nelle prossime settimane. In realtà, secondo il quotidiano, l'unica soluzione per far uscire il paese dal pantano è una grande coalizione con Siriza e Nea Dimocrazia, che spingerebbe l'intero sistema politico ad assumersi le sue responsabilità. Una sorta di grosse coalizioni anche in Grecia. E vedremo dopo i risultati delle elezioni del 20 settembre, che ruolo avrà questa donna, ma anche naturalmente Alexis Tsipras, ex primo ministro, e tutti gli altri politici di spicco della Grecia. Era l'ultima segnalazione, magari settimana prossima toccheremo anche altri argomenti. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.